chiama un titolo e una risposta. Per 5 minuti ci concediamo una breve sosta. Un attimo dopo la terza birra, birra adesso basta. Ci alziamo e la foto è mossa mentre tutto resta. Siamo mosaico di noi e delle nostre parti, qualche tessera di troppo, ma non ci sono scarti. Comporlo a fatica e poi da lì riparti. Al semaforo verde di Piazza delle Belle Arti, i pezzi che ti perdi, che non ti fanno dormire, stavano là in fondo, coperti da scoprire. Ognuno con la sua gloria, cantiamo canzoni a memoria, per 5 minuti di storia che dopo non ricordi già più. Lo sanno tutti, non hai mai dubbi, né io certezze, ma una parola libera tutti, e non chiedo scuse, non lo fai neanche tu. Amico complice, un passo irraggiungibile, un padre nobile, un orizzonte visibile, un servo docile e semplice, sono stato per te il respiro più facile e un posto delle fragole. Riordino punti che poi ti fan capire, in questo doppio fondo trovato da riempire. Ognuno con la sua gloria, cantiamo canzoni a memoria, per 5 minuti di storia che dopo non ricordi già più. Ognuno dalla sua storia, saremo canzoni e memoria, nei 4 minuti di gloria ritorno e già ritorni anche tu. Lo sanno tutti, non hai mai dubbi, né io certezze, ma una parola ci libera tutti, e ti credo e scusa, ora ci credi anche tu.